ya no grass e mate ahwemu enso se se dia mi hu amani o bini mi nchai ma mi so gumu bi se nya mi kra ne mi santo so bi twa mi twa e me aye mi se bi kra mu di o woni ma ko ma so ma die enti aye ntwi hu o ore ko ba do mi ha do mi pre ko ore ko ba do mi ha do mi pre ko ore awon fe me fa wo don ti do ore en fa mi ni wu mi no do ti chu mi de ko ba do mi ha do mi pre ko ore ko ba do mi ha do mi pre ko ore awon fe me fa wo don ti do ore en fa mi ni wu mi no do ti chu mi de sanga kumati se bo fra anka me be nwa ma we hu odon muru suo na ma boni be dey me dey be suo wa ma we dru all the pictures I dey take before try to paint my love for you don't you hear what them dey say I go love you make me shame the devil where you for hold me like your own now and forever And family who me no don't you chew me day Go better me out of me break on a day Go better me out of me break on a day And what for me for what don't you do I'm in love with a day And family who me no don't you chew I'm in love with me day I'm in love with this cute chick She drives me on like the Q6 I'm in the wild fantasies The titties are from the city That make you dance to the music You know I treat you so well Be fantasizing about you being my girl So when I had the chance to cast a spell I said someone like you or someone like Adele So tell the world to go to hell I'm the man on fire, Denzel I'll buy you shoes, diamonds and pearls Upper class tickets, see around the world Umpe we now per day or do Jessica pa inconsider bay so ko ne mape so ko nya boni o tu o sika na da o ya se ne wa yo ore ore ore ore ore ore ore ore ore ore ore ore ore ore ore ore ore ore ore ore ore ore ore ore ore ore ore ore ore ore ore ore ore ore ore ore ore ore ore ore ore ore ore ore ore ore ore ore ore ore ore ore ore ore ore ore ore ore ore ore ore ore ore ore ore ore ore ore ore ore ore ore ore ore ore ore ore ore ore ore ore ore ore ore ore ore ore ore ore ore ore ore ore ore ore ore ore ore ore ore ore ore ore ore ore ore ore ore ore ore ore ore ore ore ore ore ore ore ore ore ore ore ore ore ore ore ore ore ore ore ore ore ore ore ore ore ore ore ore ore ore ore ore ore ore ore ore ore ore ore ore ore ore ore ore ore ore ore ore ore ore ore ore ore ore ore ore ore ore ore ore ore ore ore ore ore ore ore ore ore ore ore ore ore ore ore ore ore ore